Dio è sovrano. Questo è un assioma che scaturisce in modo lapalissiano dalle scritture. La testimonianza del salmista non lascia dubbi. Sì, io riconosco che l'Eterno è grande e che il nostro Signore è al di sopra di tutti gli dèi. L'Eterno fa tutto ciò che gli piace, in cielo, in terra, nei mari e in tutti gli abissi. Salmo 135,6. Giobbe conferma. Ma egli non ha uguali, e chi mai può farlo cambiare? Ciò che egli vuole, lo fa. Giobbe 23 e 13. Il profeta Isaia si unisce al coro. L'Eterno degli eserciti ha giurato, dicendo: In verità come ho pensato, così sarà, e come ho deciso, così accadrà. Isaia 14 e 24. Ogni cristiano crede a questa caratteristica dell'Eterno Dio. Proprio per questo, chi non crede alla sovranità di Dio può mettere in serio dubbio la sua fede in colui che si è rivelato sul monte Sinai. Nella sua sovranità, l'Eterno ha un piano per il creato e per ogni creatura, e l'uomo non potrà mai sovvertire i suoi piani. Perfino il diavolo, nell'intenzione di impedire i piani di Dio, facendo morire Gesù in croce, non ha fatto altro che contribuire ad adempiere tutto ciò che era stato determinato secondo il consiglio e la sua prescienza. Atti 2:23. Di un ingiusto crimine compiuto dagli uomini, Dio ha fatto il suo strumento per la salvezza del mondo intero. Il Creatore porta all'esistenza l'uomo quando vuole, come vuole e dove vuole. Questo fatto indispone alcune persone che si trovano paralizzate davanti alla maestà di Dio. Ma anche dal nostro punto di vista il Creatore non ha e non fa torto a nessuno, almeno per tre motivi. 1. L'Eterno Dio ha creato l'uomo a sua immagine. Il Creatore non poteva avere un modello migliore. Perciò l'uomo non può avanzare proteste, né sentirsi umiliato. Ne avrebbe una ragione, se gli fosse possibile offendersi, l'animale, a motivo di come è stato creato, perché nessuno di essi è stato fatto ad immagine di Dio. 2. È vero che l'uomo non ha chiesto a Dio di nascere, ma qualsiasi persona che non abbia gravi squilibri psichici ama la vita e non cerca la morte. Se Dio ci avesse chiesto un parere, per la nostra stoltezza avremmo rifiutato di esistere. Nessuno però chiede ad un malato di mente che cosa sia meglio fare per lui. 3. Chi accusa Dio di abuso di potere non dovrebbe a sua volta generare figli senza chiedere il loro parere. Non solo il Dio Trino è padrone assoluto della sua volontà, ma è pure inaccessibile e imperscrutabile. Eliù disse a Giobbe, che aveva un'idea ristretta di Dio: Contempla il cielo e osserva. Guarda le nuvole che sono più alte di te. Se pecchi, che effetto ha su di lui? Se moltiplichi i tuoi misfatti, che danno gli arrechi? Se sei giusto, che cosa gli dai, o che cosa riceve dalla tua mano? La tua malvagità può solamente nuocere a un uomo come te, e la tua giustizia può solamente giovare a un figlio d'uomo. Giobbe 35, 5 a 7. Sinti Titeo è totalmente altro. Non è condizionato dal comportamento dell'uomo. Egli ha una volontà, dei piani che comunque si adempiono, e l'uomo non può fare altro che prenderne atto. La preghiera del credente entra quindi in quest'ottica: non forzare la volontà di Dio, ma chiedere secondo il suo volere. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. 1 Giovanni 5,14. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Giovanni 15, 7. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. Giovanni 6, 9-10. In questo consiste la preghiera del credente: pregare secondo la volontà di Dio e chiedere che sia fatta la sua volontà. Ma quando trasferiamo questa verità nella pratica di tutti i giorni, troviamo ostacoli non indifferenti. Per quanto mi riguarda, non prego sempre con la convinzione che quanto sto chiedendo rientri nella volontà o nei piani di Dio, per cui la mia preghiera non è convinta ed ha un grande margine di dubbio. Prego per un malato che guarisca, ma è proprio questa la volontà di Dio? Non è nel volere di Dio che tutti i malati guariscano? Paolo ha pregato perché gli fosse tolta una spina dalla carne. Ma Cristo Gesù aveva disposto diversamente. 2 Corinzi 12:7. Prego per l'evangelizzazione in una certa zona della città, ma è proprio quella la zona giusta. Paolo desiderava evangelizzare in Asia, ma ciò non rientrava nella volontà di Dio. Atti 16:6-7. Ho il desiderio di svolgere un'opera per il Signore, ma è nel volere di Dio. Anche Davide aveva in cuore di costruire una casa per l'Eterno, ma il suo Dio non era d'accordo, pur avendolo lodato per l'iniziativa. 1 Re 8, 18-19. Queste e altre domande bloccano una preghiera convinta. Succede così che, a volte, il credente aspetti la convinzione da parte di Dio e aspetta, aspetta, aspetta e non prega. Il credente arriva a pensare che la preghiera sia un bisogno psicologico, perché, in fondo, i piani di Dio sono irremovibili. Tanto, se Dio ha deciso una cosa, possiamo pregare finché vogliamo, ma ciò serve. Non solo poco, ma niente. È vero che vi sia una volontà ultima di Dio, irremovibile, ma vi è pure una volontà permissiva o circostanziale che si adatta al nostro cosmo decaduto. Come vi è pure una volontà intenzionale che può essere neutralizzata dalla volontà dell'uomo per il tempo presente. L'atteggiamento che abbiamo verso la preghiera e l'uso che ne facciamo dipendono dal concetto che abbiamo di essa e della volontà di Dio. Per questo abbiamo bisogno di disfarci di idee infantili e immature al riguardo, prima che capiti qualcosa di grave che possa mettere in serie difficoltà la nostra fede. Ogni verità è come un autoritratto. Troppa enfasi su di un particolare ne fa una caricatura. È vero che Dio è sovrano, che le nostre preghiere non cambiano i piani prestabiliti di Dio, ma tutto questo rimane vero nell'ambito degli assoluti. La realtà della vita ci insegna anche un'altra verità. Dobbiamo essere prudenti con i nostri ragionamenti, perché con questi possiamo anche arrivare a sragionare, possiamo arrivare a conclusioni assurde. Non a caso leggiamo nella parola di Dio: «L'Eterno conosce i pensieri dell'uomo e sa che sono vani». Salmo 94:11. L'uomo saggio è colui che usa il suo intelletto, riflette, vede, sa, considera e capisce. Isaia 41:20. Però il tutto non deve cadere in una sterile speculazione filosofica, ma essere calato nella realtà quotidiana. Gesù ha invitato i suoi discepoli a considerare l'amore di Dio guardando gli uccelli e il creato. Matteo 26:6. Come pure Paolo, quando fece il suo discorso all'Areopago, Atti 14:17. Come ogni ragionamento, che, non tenendo in considerazione la realtà della vita, non produce alcun beneficio all'uomo, facendolo cadere nell'astrattismo, così ogni valutazione sul Dio Trino, che non tenga in considerazione il suo operato, si allontana dalla verità. L'Apostolo Paolo, uomo di indiscusso equilibrio sia nel ragionare sia nella vita pratica, ha così affrontato il problema del rapporto fraterno. Or noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo, nel bene, a scopo di edificazione. Infatti anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come è scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché, mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture, conserviamo la speranza. Romani 15:1-4. Se vogliamo sapere come comportarci con il prossimo, dobbiamo guardare a Cristo, perché tutto quello che è stato scritto nell'Antico Testamento è per il nostro ammaestramento, per la nostra istruzione. Riguardo al nostro tema, la sovranità di Dio e la preghiera, non sono forse utili gli eventi dell'Antico Testamento anche per noi? Sul modello di come Dio abbia interagito con il popolo di Israele e con i singoli credenti, ci può istruire, chiarendo il rapporto esistente tra l'Eterno Dio Sovrano e la sua creatura. Per alcuni prendere spunto dall'Antico Testamento è un'impresa ciclopica, perché esso è da loro poco studiato, se non ignorato. Eppure non possiamo avere una corretta visione del Nuovo Testamento e dei suoi insegnamenti se non abbiamo come base le verità formulate nell'Antico Testamento. L'Evangelo predicato da Paolo non era una novità scaturita dal cilindro di un mago, ma era stato promesso per mezzo dei profeti di Dio nelle sante scritture. Romani 1:2. Gesù non ha dettato una nuova morale, nuove dottrine, ma con il suo insegnamento ha rivelato maggiormente il carattere dell'Eterno Dio espresso tramite la legge e il modo in cui egli si sia relazionato con la sua creatura. Proprio per questo prendiamo in esame come l'Eterno si relazionò con Abramo, con Mosè ed Ezechia. L'incontro di Abramo con l'Eterno. Poi quegli uomini si alzarono di là e volsero gli sguardi verso Sodoma. E Abramo camminava con loro per accomiatarli. E l'Eterno disse: «Celerò io ad Abramo quello che sto per fare, poiché Abramo deve diventare una nazione grande e potente, e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra. Io infatti l'ho scelto, perché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui di seguire la via dell'Eterno, mettendo in pratica la giustizia e l'equità, perché l'Eterno possa compiere per Abramo ciò che gli ha promesso». E l'Eterno disse: «Siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande, e siccome il loro peccato è molto grave, io scenderò per vedere se hanno veramente fatto secondo il grido che è giunto a me. In caso contrario lo saprò». Poi quegli uomini si allontanarono di là e si avviarono verso Sodoma, ma Abramo rimase ancora davanti all'Eterno. Allora Abramo si avvicinò e disse: «Farai perire il giusto insieme con l'empio? Ammesso che ci siano 50 giusti nella città, distruggeresti tu il luogo e non lo risparmieresti, per amore dei 50 giusti che si trovano nel suo mezzo? Lungi da te il fare tre cose: far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio? Lungi da te. Il giudice di tutta la terra non farà egli giustizia?» L'Eterno disse: «Se trovo nella città di Sodoma 50 giusti, io risparmierò l'intero luogo per amor loro». Allora Abramo riprese e disse: «Ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore, benché io non sia che polvere e cenere. Ammesso che a quei 50 giusti ne manchino 5, distruggeresti tu l'intera città per 5 di meno?» L'Eterno rispose: «Se ve ne trovo 45, non la distruggerò». Abramo continuò a parlargli e disse: «Ammesso che in città se ne trovino 40, e l'Eterno: «Non lo farò per amor dei 40». Allora Abramo disse: «Deh, non sia dire il Signore, ed io parlerò. Ammesso che in città se ne trovino 30, l'Eterno rispose: «Non lo farò se ve ne trovo 30». E Abramo disse: «Ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore, ammesso che in città se ne trovino 20, L'Eterno rispose: «Non la distruggerò per amor dei 20». E Abramo disse: «Deh, non sia dire il Signore, e io parlerò ancora questa volta soltanto, ammesso che in città se ne trovino 10. L'Eterno rispose: «Non la distruggerò per amore dei 10». Come l'Eterno ebbe finito di parlare ad Abramo, se ne andò. E Abramo tornò alla sua dimora. Genesi 18, 16-33. L'Eterno decide di far conoscere ad Abramo le sue intenzioni. Nello stesso modo noi oggi conosciamo i progetti di Dio tramite la sua parola. Abramo non si è limitato a dire amen a ciò che l'Eterno aveva deciso, ma discusse con lui, non tanto su questioni marginali, ma addirittura circa la sua morale. L'episodio non ci invita a discutere con Dio della sua etica, anche se è giusto che il credente possa presentare al Dio Trino i suoi dubbi, ma l'insegnamento di questo episodio è che il credente possa presentare le sue perplessità a Dio, in preghiera. Il profeta Geremia ne è un esempio. «Tu sei giusto, o Eterno, come posso discutere con te? Tuttavia parlerò con te intorno ai tuoi giudizi. Perché la via degli empi prospera? Perché vivono tranquilli quelli che agiscono perfidamente?» Geremia 12, 1. Geremia sapeva di non poter discutere alla pari con l'Eterno, ma, comunque, ebbe l'ardire di dire la sua. Il Dio trino dei cristiani non è un autocrate cui tutti, comunque, debbano ubbidire tacitamente, senza porsi domande. Dio ascolta e accetta le nostre ragioni e perplessità. Anche in questo clima di dubbi e di interrogativi, chi teme Dio deve comunque continuare il cammino intrapreso. Nel primo libro di Samuele si narra un episodio patetico. A due mucche che allattavano ancora erano stati tolti i vitelli ed esse furono attaccate ad un carro perché lo conducessero in una certa località lontana. Queste, seguendo sempre la stessa strada e muggendo mentre andavano, non piegarono né a destra né a sinistra. 1 Samuele 6 e 11. 12. Sì, ci è lecito muggire e presentare le nostre perplessità, ma, contemporaneamente, siamo chiamati a mantenere l'impegno che abbiamo preso e a vivere rettamente. Potremmo, sì, discutere con Dio. Purtroppo, come disse qualcuno per fare una battuta, ci sarebbero solo due argomentazioni che potremmo discutere con lui, ma non reggono nessuna delle due. L'episodio della vita di Mosè. L'Eterno disse allora a Mosè: va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto si è corrotto, si sono presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, si sono prostrati davanti ad esso, già hanno offerto sacrifici. E hanno detto: o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. L'Eterno disse ancora a Mosè: ho visto questo popolo ed ecco, è un popolo dal collo duro. Or dunque, lasciami fare, affinché la mia ira si accenda contro di loro e li consumi, ma di te io farò una grande nazione. Allora Mosè supplicò l'Eterno, il suo Dio, e disse: perché, o Eterno, dovrebbe la tua ira accendersi contro il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto con grande potenza e con mano forte? Perché dovrebbero gli egiziani dire: egli li ha fatti uscire per fare loro del male, per ucciderli sui monti e per sterminarli dalla faccia della terra? Desisti dalla tua ira ardente e cambia la tua intenzione di far del male al tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali giurasti per te stesso, dicendo loro: io moltiplicherò la vostra discendenza come le stelle del cielo e darò alla vostra discendenza tutto questo paese di cui t'ho parlato, ed essa lo possederà per sempre. Così l'Eterno cambiò intenzione circa il male che aveva detto di fare al suo popolo. Esodo 32, 7-14. L'Eterno voleva rigettare il popolo di Israele e sceglierne un altro, avente quale capostipite Mosè. Mosè intercedette e l'Eterno si pentì del suo proposito. 40 anni dopo Mosè commenta quell'episodio: anche ad Horeb provocaste ad ira l'Eterno, e l'Eterno si adirò contro di voi, al punto di volervi distruggere. Quando salì sul monte per ricevere le tavole di pietra, le tavole del patto che l'Eterno aveva fatto con voi, io rimasi sul monte 40 giorni e 40 notti, senza mangiare pane né bere acqua. E l'Eterno mi diede le due tavole di pietra scritte con il dito di Dio, sulle quali erano tutte le parole che l'Eterno vi aveva detto sul monte, di mezzo al fuoco, il giorno dell'assemblea. E fu alla fine dei 40 giorni e delle 40 notti che l'Eterno mi diede le due tavole di pietra, le tavole del patto. Poi l'Eterno mi disse: levati, scendi in fretta di qui, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dall'Egitto si è corrotto, presto deviato dalla via che io avevo loro ordinato di seguire, e si son fatti una immagine di metallo fuso. L'Eterno mi parlò ancora, dicendo: io l'ho visto, questo popolo, ecco, è un popolo dal collo duro. Lascia che li distrugga e cancelli il loro nome di sotto i cieli, e farò di te una nazione più potente e più grande di loro. Così mi voltai e scesi dal monte, mentre il monte ardeva col fuoco, e le due tavole del patto erano nelle mie mani. Guardai, ed ecco che avevate peccato contro l'Eterno, il vostro Dio, e vi eravate fatto un vitello di metallo fuso. Avevate ben presto lasciata la via che l'Eterno vi aveva ordinato di seguire. Allora Afferrai le due tavole, le scagliai dalle mie mani e le spezzai sotto i vostri occhi. Poi mi gettai davanti all'Eterno, come la prima volta, per 40 giorni e per 40 notti. Non mangiai pane né bevvi acqua, a motivo di tutti i vostri peccati che avevate commesso, facendo ciò che è male agli occhi dell'Eterno, per provocarlo ad ira. Poiché io avevo paura dell'ira e del furore con cui l'Eterno era acceso contro di voi, al punto di volervi distruggere. Ma l'Eterno mi esaudì anche quella volta. L'Eterno si adirò pure grandemente contro Aronne, al punto di volerlo distruggere. Così quella volta io pregai anche per Aronne. Poi presi l'oggetto del vostro peccato, il vitello che avevate fatto, lo bruciai col fuoco e lo frantumai e macinai in minuscoli frammenti fino a ridurlo in polvere minuta, e ne gettai la polvere nel torrente che scende dal monte. Deuteronomio 9, 8-21. La situazione era seria. L'Eterno Dio era veramente adirato e deciso di distruggere il popolo ribelle. Solo grazie all'intervento di Mosè si salvarono sia il popolo che Aronne. Le domande che sorgono da questo episodio sono: l'Eterno stava scherzando, recitava una parte, o aveva veramente l'intenzione di fare ciò che aveva detto? Se mettiamo in dubbio le intenzioni dell'Eterno Dio, allora la sua parola non ha molto da dirci. Se invece l'Eterno diceva sul serio, se era veramente disposto a distruggere il popolo e uccidere Aronne, la preghiera di Mosè ha dunque modellato il proposito o la volontà intenzionale dell'Eterno. Perciò, da tutto l'episodio, comprendiamo che l'Eterno fosse veramente deciso a sterminare il popolo ed Aronne, e lo dimostra il fatto che Mosè, vedendo la drastica decisione dell'Eterno, digiunò per altri 40 giorni. Nessun uomo al mondo ha mai digiunato 80 giorni rimanendo in vita, ma è anche vero che nessuno si fosse mai trovato nelle drammatiche condizioni di Mosè. L'episodio al Monte Sinai non è unico nel suo genere. Leggiamo ancora nel Libro dei Numeri, al capitolo 14, che l'Eterno volesse distruggere il suo popolo, ma grazie ancora all'ennesimo intervento di Mosè, egli si limitò a farlo vagare nel deserto per 40 anni. La volontà intenzionale dell'Eterno è stata modificata dall'intercessione di un uomo. L'episodio di Ezechia. In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Allora il profeta Isaia, figlio di Amoz, si recò da lui. E gli disse: «Così parla l'Eterno, metti la tua casa in ordine perché morirai e non guarirai». Egli allora voltò la faccia verso la parete e pregò l'Eterno, dicendo: «Ti supplico, o Eterno, ricordati come ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e ho fatto ciò che è bene ai tuoi occhi». Poi Ezechia scoppiò in un gran pianto. Isaia non era ancora giunto al cortile centrale che la parola dell'Eterno gli fu rivolta, dicendo: «Torna indietro e di a Ezechia, principe del mio popolo. Così parla l'Eterno, il Dio di Davide tuo padre. Ho udito la tua preghiera e ho visto le tue lacrime. Ecco, io ti guarisco. Nel terzo giorno salirai alla casa dell'Eterno. Aggiungerò alla tua vita 15 anni, libererò te e questa città dalle mani del re di Assiria e proteggerò questa città per amore di me stesso e per amore di Davide mio servo». Poi Isaia disse: «Prendete un impiastro di fichi». Così essi lo presero e lo applicarono sull'ulcera, e il re guarì. 2 Re 20, 1-7. L'Eterno aveva decretato la morte di Ezechia. Il re di Israele, con un pianto dirotto, prega l'Eterno perché non lo faccia morire. Secondo il racconto biblico, il profeta Isaia non fa in tempo a tornare a casa, che l'Eterno cambia idea. La domanda che sorge da questo episodio è: aveva l'Eterno veramente fissata la morte di Ezechia? Se l'Eterno ha parlato tanto per dire «ha fatto mentire il profeta Isaia» e ha preso in giro Ezechia, se invece ha veramente detto quello che ha detto, allora l'Eterno ha cambiato idea in seguito alla preghiera di Ezechia. Ancora una volta prendiamo atto che esista una volontà di Dio che può essere mutata dalle preghiere degli uomini. Da questi episodi comprendiamo che vi sia una volontà di Dio che non è inattaccabile, indiscutibile. Nella sua sovranità, l'Eterno ha deciso di lasciarsi modellare dalle richieste delle sue creature. Anzi, egli stesso afferma categoricamente di lasciarsi condizionare dall'atteggiamento dell'uomo. Ecco cosa dice il profeta Geremia, la parola che fu rivolta a Geremia dall'Eterno, dicendo: «Alzati e scendi alla casa del vasaio, e là ti farò udire le mie parole». Allora io scesi alla casa del vasaio, ed ecco, egli stava facendo un lavoro alla ruota, ma il vaso che stava facendo con l'argilla si guastò nelle mani del vasaio. Così, cominciando da capo, egli fece con essa un altro vaso, come parve bene agli occhi del vasaio. Allora la parola dell'Eterno mi fu rivolta, dicendo: «O casa di Israele, non posso io fare con voi come ha fatto questo vasaio?» dice l'Eterno. «Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così siete voi nelle mie mani, o casa di Israele. Talvolta riguardo a una nazione e riguardo a un regno, io parlo di sradicare, di abbattere e di distruggere. Ma se quella nazione contro la quale ho parlato si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male che avevo pensato di farle. Altra volta riguardo a una nazione e riguardo a un regno, io parlo di edificare e di piantare. Ma se quella nazione o regno fa ciò che è male ai miei occhi, non ascoltando la mia voce, io mi pento del bene che avevo promesso di farle. Perciò ora parla agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme, e così dice l'Eterno: ecco, io concepisco contro di voi del male e formo contro di voi un disegno. Si converta ora ciascun di voi dalla sua via malvagia, ed emendate le vostre vie e le vostre azioni. Geremia 18:1-11. Tramite il profeta Geremia, l'Eterno fa sapere di essere disposto a pentirsi dei suoi progetti. Perché? Allora leggiamo nella scrittura che l'Eterno non si pente. Numeri 23:19. Cosa intende l'Eterno Dio affermando di pentirsi? Sono numerosi i brani della scrittura riferentesi al suo pentimento. La parola di Dio, affermando che l'Eterno si penta, esprime un cambiamento di atteggiamento, idea, programma, piano. Infatti, col diluvio, l'Eterno voltò pagina nella storia dell'umanità, cambiò idea dietro l'insistente preghiera di Mosè, cambiò programma riguardo all'elezione del re. Tramite il profeta Geremia, l'Eterno afferma chiaramente di essere disposto a cambiare le sue intenzioni se da parte dell'uomo vi è del pentimento. Ecco perché alcune traduzioni preferiscono usare parole come rincrescersi, addolorarsene, intenerirsi, revocare, quando invece la parola afferma che l'Eterno non si pente, cioè non cambia idea, intenzioni. Ciò è detto in riferimento ai suoi propositi, alle sue promesse, ai suoi doni, i quali sono immutabili e non condizionati dai peccati dell'uomo, perché come afferma Giacomo, Dio non muta. Giacomo 1:17. Queste riflessioni trovano riscontro nei vari episodi che leggiamo nella scrittura. L'Eterno decide di distruggere Ninive, ma il pentimento del popolo rimanda la sua decisione. Giona 3:4. Ninive verrà distrutta solo molto tempo dopo, e a causa del suo progressivo ritorno all'empietà. L'Eterno decide di distruggere la casa di Acab, ma l'umiliazione del re rimanda la sua sentenza. 1 Re 21:29. L'Eterno aveva deciso del male verso Roboamo, ma la sua umiliazione ha mitigato la pena. 2 Cronache 12:12. L'Eterno non si è rivelato come un despota che ha deciso una cosa e, comunque vadano le situazioni, tiri diritto per la sua strada. L'Eterno accetta che siano messe in discussione le sue idee e i suoi progetti. Diversamente non potrebbero sussistere le 5 forme di comunione con Dio: l'adorazione, la lode, il ringraziamento, la supplicazione e l'intercessione. Come qualcuno ha detto, soltanto Dio può spostare le montagne, ma la fede e la preghiera spostano Dio. Anzi, egli desidera che siano ricordate le sue promesse. Infatti, se la preghiera di Mosè fu esaudita, è perché egli fece appello a ciò che l'Eterno aveva affermato. Ecco cosa disse: ma ora ti prego, sia la potenza del mio Signore manifestata nella sua grandezza, come tu hai parlato, dicendo: l'Eterno è lento all'ira e grande in misericordia. Egli perdona l'iniquità e il peccato, ma non lascia impunito il colpevole, punendo l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione. De perdona l'iniquità di questo popolo secondo la grandezza della tua misericordia, come hai perdonato a questo popolo dall'Egitto fin qui. Numeri 14, 17 e 19. L'uomo di Dio non è colui che, comunque vadano le cose, accetta supinamente o passivamente le situazioni della vita. Occorre sottomissione alla sovranità di Dio, ma sottomissione non significa castrare la propria ragione, quella stessa ragione che ci fa simili a Dio. Il profeta Abacuc ne è un esempio. La sua preghiera è il grido di una santa sottomissione. Fino a quando, o Eterno, griderò? Senza che tu mi dia ascolto? Io grido a te, violenza, ma tu non salvi. Perché mi fai vedere l'iniquità e mi fai guardare la perversità? Davanti a me stanno rapina e violenza, ci è contesa e cresce la discordia. Perciò la legge non ha forza e la giustizia non riesce ad affermarsi, perché l'empio raggira il giusto e la giustizia ne esce pervertita. Abacuc 1, 2 a 4. E lo spirito di santità, che spinge il credente a porsi delle domande. Generalmente è colui che teme il suo creatore, che si pone interrogativi sulle vie di Dio. Il non credente giudica un Dio che non conosce, che si è fatto a sua immagine e somiglianza, mentre il credente chiede, come Abramo, che l'Eterno Dio sia coerente con le promesse che egli ha fatto. Sono domande originate non dal giudizio, dalla condanna, ma dall'incomprensione di chi desidera ardentemente che la giustizia trionfi. Non sei tu da sempre, o Eterno, mio Dio, il mio Santo. Noi non moriremo, o Eterno, perché tu l'hai designato per fare giustizia e l'hai stabilito, o Rocca, per castigare. Tu hai gli occhi troppo puri per vedere il male, e non puoi guardare l'iniquità. Perché stai a guardare quelli che agiscono con frode e taci quando il malvagio divora? Chi è più giusto di lui? Perché rendi gli uomini come i pesci del mare e come i rettili che non hanno signore? Abacuc 1, 12-14. Abacuc non ha accettato stoicamente l'ingiustizia, non è stato in silenzio, pensando che tanto Dio è Dio e fa quello che vuole. I suoi interrogativi non erano sfoghi psicologici di un credente frustrato, ma sintomi di vitalità, di chi vive intensamente un rapporto di comunione con l'Eterno Dio. Io starò al mio posto di guardia, mi porrò sulla torre e starò attento per vedere ciò che egli mi dirà e ciò che dovrò rispondere circa la rimostranza fatta. Abacuc 2, 1. Ecco l'atteggiamento che deve avere il credente mentre prega: presentare davanti al Dio Trino, quando è necessario, la propria rimostranza, il proprio biasimo, la lamentela, senza paura di essere colpiti da una delle saette del Dio Zeus. Il Dio dei cristiani è sovrano, regna su ogni circostanza, ma desidera che i suoi figli collaborino attivamente ai suoi progetti, esprimendo il consenso ma anche il dissenso. Vi è una confidenza in Dio, una fiducia e una accettazione della sua sovranità, che ha la sua sede nell'immaturità. Il credente maturo è colui che ha un atteggiamento di timore, di sottomissione, di reverenza verso Dio, ma ritiene la preghiera, il suo colloquio con Dio, un rapporto tra esseri razionali, tra quattro persone, aventi il desiderio che trionfi la verità e la giustizia sopra il male. Se così non è, si rischia di rapportarsi con un idolo che si è costruito e che non è difficile da amare. Se vogliamo avere una corretta visione del rapporto che intercorra tra la sovranità di Dio e la preghiera, dobbiamo considerare la vita di Gesù, il Figlio di Dio, e ascoltare i suoi insegnamenti. Gesù, il figlio di Maria, si è dichiarato più volte la divinità di Israele presente nell'Antico Testamento, colui che è stato l'oggetto della fede, sia dei santi dell'Antico Testamento sia del Nuovo. Nella sua vita terrena Gesù ha più volte dichiarato d'essere venuto per la casa di Israele, Matteo 10:6, che il suo compito principale fosse compiere le sue opere fra il popolo che lui aveva scelto. Infatti, quando mandò i 70 ad evangelizzare, ordinò loro di andare verso le pecore perdute della casa di Israele, anziché tra i pagani, Matteo 15:54. Ma un giorno una donna non appartenente al popolo eletto sirofenicia aveva urgentemente bisogno d'aiuto. Ecco l'episodio. Poi Gesù, partito di là, si diresse verso le parti di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea, venuta da quei dintorni, si mise a gridare dicendo: «Abbi pietà di me, Signore figlio di Davide! Mia figlia è terribilmente tormentata da un demone!» Ma egli non le rispondeva nulla. E i suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano dicendo: «Licenziala, perché ci grida dietro!» Ma egli, rispondendo, disse: «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele». Ella però venne e l'adorò dicendo: «Signore, aiutami!» Egli le rispose dicendo: «Non è cosa buona prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ma ella disse: «È vero, Signore, poiché anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le rispose dicendo: «O donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come tu vuoi». E in quel momento sua figlia fu guarita. Matteo 15:21-28. Una donna non appartenente al popolo di Israele pregò Gesù perché facesse un miracolo a favore di sua figlia. Ma Gesù, coerente con quello che aveva sempre sostenuto, rispose che era stato mandato solo per i giudei. La donna non si scoraggiò di fronte al diniego di Gesù e chiese, nonostante tutto, misericordia. Mosso a compassione, Gesù esaudì la donna. Gesù Cristo, quale figlio di Dio, aveva dei progetti e dei piani, ma, come egli disse, il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, per cui non ritenne inopportuno esprimere un atto di misericordia fuori programma, esaudendo una donna pagana. È vero che l'Eterno Dio è l'Assoluto, colui che è là l'Altissimo, il Dio d'eternità, il Padrone, ma egli non è irremovibile nelle sue decisioni. Possiamo comprendere come debba pregare il credente anche dalla parabola della vedova e del giudice ingiusto, descritta da Gesù in Luca 18:1-6. Poi propose loro ancora una parabola, per mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi, dicendo: «C'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per alcuno. Or in quella stessa città c'era una vedova che andava da lui, dicendo: "Fammi giustizia del mio avversario". Per un certo tempo egli si rifiutò di farlo, ma poi disse fra sé: "Anche se non temo Dio e non ho rispetto per alcun uomo, tuttavia, poiché questa vedova continua a infastidirmi, le farò giustizia perché a forza di venire, alla fine non mi esaurisca". E il Signore disse: "Ascoltate ciò che dice il giudice iniquo". Gesù raccontò la parabola con lo scopo di invitare il credente a pregare continuamente Dio senza stancarsi. Come disse qualcuno, Dio ama i cristiani che gli ronzano attorno. Se Dio fosse irremovibile, inaccessibile, se le sue decisioni fossero indiscutibili, tale invito non avrebbe senso. In effetti, l'intenzione del giudice ingiusto era di non esaudire la vedova, ma affinché non finisse per rompergli la testa, le concesse giustizia. E quindi Gesù, che incoraggia il credente ad assaltare il trono di Dio. L'assalto ostinato della vedova non è stato quello di un guerriero fiero, spavaldo e ambizioso di conquistare il potere, ma di un'anima disperata e umiliata, di fronte alla quale Dio è sempre disarmato. Sì, perché il tallone di Achille di Dio è l'umiltà. Lo scopo della preghiera non è quello di presentarsi davanti a un essere non indicabile, ma quello di imparare a conoscere meglio la deità, quello di penetrare i segreti del suo cuore, per cui un'anima che teme e ama il Dio Trino non può fare a meno di andare alla sua presenza. Presenza che, per un figlio di Dio, è più preziosa dell'oro e a volte a costo della propria vita. Daniele, il profeta grandemente amato, ha preferito passare una notte con i leoni che un giorno senza preghiera. Poiché il valore di una relazione profonda ed intima con Dio è grandissimo, immenso, incommensurabile, non vi è dunque sacrificio troppo grande pur di raggiungerla. Anche nella parabola dell'amico inopportuno, descritta in Luca 11:5-13, Gesù ha voluto istruirci in relazione alla preghiera. Poi disse loro: chi è fra voi colui che ha un amico che va da lui a mezzanotte dicendogli: amico, prestami tre pani, perché un mio amico in viaggio è arrivato da me e io non ho cosa mettergli davanti, e quello di dentro, rispondendogli, dice: non darmi fastidio, la porta è già chiusa e i miei bambini sono a letto con me. Non posso alzarmi per darteli? Io vi dico che anche se non si alzasse a darglieli, perché gli è amico, non di meno per la sua insistenza si alzerà e gli darà tutti i pani di cui ha bisogno. Perciò vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi è tra voi quel padre che, se il figlio gli chiede del pane, gli dà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli dà uno scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. In questa parabola Gesù ci identifica in colui che viene importunato dall'amico. Nessuno di noi è scortese verso un amico e quindi, anche se accogliere la richiesta rappresenta un fastidio notevole, non potremmo esimerci dall'aiutarlo. L'analogia è chiara. Anche se Dio non volesse esaudirci, anche se avesse pensato diversamente nella sua misericordia alla nostra necessità, lo farebbe agire. La condizione è che noi chiediamo con perseveranza, che cerchiamo senza stancarci, che bussiamo ripetutamente. Se Dio non cambiasse mai idea, se la sua sovranità non tenesse in conto le nostre necessità, non avrebbero senso le esortazioni di Gesù di pregare, invocare, chiedere, bussare. Anche qui occorre però presentare l'altro aspetto della medaglia. La risposta ad una preghiera non è sempre la prova che si sia chiesto in accordo con la sua volontà. Israele chiese un re e, nonostante questo fosse contro la sua volontà, Osea 13:11, l'Eterno Dio esaudì il popolo. 1 Samuele capitolo 8. Satana chiese di provare Giobbe e l'Eterno glielo concesse. Giobbe capitolo 1. I demoni chiedono a Gesù di entrare nei porci e Gesù glielo concede. Matteo 8:28-34. Questi episodi fanno riflettere. Il credente, che ha libero accesso alla Deità, al Dio Trino, è chiamato a pregare incessantemente con perseveranza, ma il suo atteggiamento sarà simile alla preghiera espressa nel Salmo 123. A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco come gli occhi dei servi sono rivolti alla mano dei loro padroni, e gli occhi della serva alla mano della sua padrona, così i nostri occhi sono rivolti all'Eterno, Dio nostro, finché Egli abbia pietà di noi. Abbi pietà di noi, o Eterno, abbi pietà di noi, perché siamo oltremodo sazi di disprezzo. L'anima nostra è oltremodo sazia dello scherno degli arroganti e del disprezzo dei superbi. La preghiera gradita a Dio è animata da uno spirito di dipendenza, di supplica, di indegnità. Con questo spirito il credente presenterà a Dio, anche con veemenza, tutto ciò che può ostacolare la corsa verso il premio. Se invece una preoccupazione è troppo piccola per essere presentata in una preghiera, essa è anche troppo piccola per essere ritenuta un fardello. Forse uno dei bisogni più grandi nella Chiesa del Dio Trino è che vi siano uomini e donne che sappiano parlare con Dio, stare alla sua presenza. Io non mi ritengo uno di questi, ma questo è comunque il mio obiettivo. Se tu accetti che il Dio Trino sia sovrano, considera che Egli ha il diritto di fare e di decidere come vuole. Che lo spirito della tua preghiera giornaliera possa essere: Padre mio, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così pure nella mia vita. Nonostante ciò, parla con Lui quando vuoi. come vuoi, nel luogo che vuoi. Anzi, dato che la preghiera è ogni forma di comunione con il Dio Trino, e camminare con Lui, Genesi 5:24, non permettere che nessuna circostanza o persona interferisca in questo rapporto a tu per tu. Se il Dio Trino per te non è un unico Dio nel quale sussistono tre persone, se non lo consideri avvicinabile, si trasforma in un idolo. Per non cadere in questo pericolo, parla con Gesù Cristo, l'uomo Dio, Dio fatto uomo. Lo scopo della preghiera è diventare simile al cuore di Dio, chiedere secondo la sua volontà e non cessare mai di avere uno spirito di preghiera. Che le parole del profeta Isaia siano di esempio. Sulle tue mura, o Gerusalemme, ho posto delle sentinelle, che per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai. Voi che ricordate all'Eterno le sue promesse, non state in silenzio e non dategli riposo finché non abbia ristabilito e reso Gerusalemme la lode di tutta la terra. Isaia 62:6-7. Maggio 2000. Radio 2003. Ellero.